ancestrali rappresentazioni del mondo venate qua e là di sapere antropomorfico ci governano tuttora tramite le parole. Max Müller, a metà del secolo scorso, nelle sue letture sopra la scienza del linguaggio, raccoglie dalle varie lingue tutte le parole che designano il sole e scopre che il lavorio mentale che l'ha prodotte è molto vario. Alcuni nel sole hanno visto e designato la brillantezza, altri il calore, altri la sua somiglianza con l'oro, altri la sua funzione preservativa e altri ancora all'opposto la sua funzione distruttiva. C'è stato chi l'ha paragonato al lupo e chi al leone, chi l'ha considerato occhio del cielo, chi padre della luce e chi padre della vita. Le varie lingue testimoniano di questi differenti modi di percepire, categorizzare e semantizzare il mondo, inteso per quell'insieme di cose che, un po' per caso e un po' per forza di cose, abbiamo distinto dallo sfondo del superfluo e del fuggevole, delle vaghe presenze che costituiscono le nostre e le altrui esistenze. A seconda di scopi, ambiente, cultura ed esigenze materiali più o meno immediate, c'è chi costruisce in un modo e chi nell'altro. La socializzazione, poi, che è una vera e propria roulette darwiniana in cui il numero fortunato dipende sempre in qualche modo dal numero uscito in precedenza, la socializzazione fa il resto. Finché gli riesce, dà continuità e permanenza. Quella continuità e quella permanenza grazie alle quali, quando parliamo, riusciamo a volte, e se ci vogliamo particolarmente bene, anche a capirci. Così, per riprendere l'esempio, quello stesso sole che in italiano è visto al maschile, in tedesco, sonne, è visto al femminile. E già nel cambio di genere, spesso, possono celarsi mutamenti importanti nel nostro modo di vedere le cose. In italiano, quando pranziamo in famiglia, andiamo tutti a tavola. Ma se prenotiamo al ristorante, prenotiamo un tavolo, così come i nostri governanti ed i nostri oppositori, se debbono incontrarsi per mettersi d'accordo sulle cosiddette regole, lo fanno attorno ad un tavolo, che più passa il tempo più si carica di metaforicità, ma non certo a tavola, perché poco si addirebbe alla gravità del loro compito. Che in materia ci sia una certa mobilità, come peraltro in materia di opinioni e di valorizzazioni conseguenti, è ormai cosa nota. Allora, sono a casa di amici e si chiacchiera piacevolmente, allorché una fanciulla ci racconta che la sua vita condominiale l'ha condotta a nuove consapevolezze sui mutamenti linguistici. Sulla porta dell'ascensore, giorni prima, c'era un cartello: l'ascensore è guasta. Chiede: cos'è accaduto? Dove l'ascensore ha perso la sua storica virilità? È la prima volta che la sento. I pareri della compagnia sono diversi, più propendono per l'errore, mentre io sono sempre tentato di dire che anche gli errori non vengono per caso e che l'avesse pur fatta una persona sola, la femminilizzazione dell'ascensore è un problema culturalmente interessante. Più tardi mi è venuto anche in mente, peraltro, che si tratta di un'operazione comunque coraggiosa, perché è compiuta nonostante il suffisso, un suffisso ore, che rimane tipicamente maschile, come controllore, dottore, corridore, quel che volete. Alla questione, tuttavia, dopo quei pochi tentativi contrastanti di risolverla, non avrei più pensato se qualche ora dopo non fosse capitato quanto segue. Allora, al momento dei commiati, sorge il problema, diciamo, di come distribuirsi in scaglioni ragionevoli. Tutti nell'ascensore non ci si sta. E allora, ecco che i più arzilli imboccano giovanilmente la tromba delle scale per lasciare ai più malfermi le comodità. Sto per buttarmi anch'io, ovviamente, vedo che siamo rimasti in due, si sono già tutti intrufolati nella scala, siamo rimasti in due, io e Giulio, che per l'appunto è lì che sosta accanto alla porta dell'ascensore. Vedo la spia luminosa che segnala l'ascensore in arrivo, intravedo la cabina che sta giungendo al piano, mi fermo e dico: l'hai già chiamata? Lui mi guarda e dice: ma allora è vero, anche tu la consideri femminile. Beh, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto, ma in quel momento ho capito tutto. Ho capito il meccanismo mentale che mi ha spinto alla femminilizzazione. È un meccanismo che ha a che fare con le metafore e con le metonimie o metonimie, ovvero con le estensioni funzionali e con i rapporti di contiguità fra i risultati della percezione. È semplicissimo. Avevo visto la luce, femminile, e avevo visto giungere la cabina, femminile. Poi nel predicare, nel parlarne e nel predicare in ritardo sui tempi, inadeguatamente perché la cabina stava già arrivando, ho concordato, ho cioè esteso il primo femminile al resto. Qualcosa del genere deve essere accaduto al portinaio di quella mia amica. Probabilmente il guasto era alla porta dell'ascensore o a qualcos'altro di predicato al femminile e inavvertitamente, magari sotto il peso della preoccupazione del compilare il cartello, ha esteso la concordanza. Così la lingua, eh sì, ratificando gli errori dei parlanti, evolve e mostrando in ciò tutta la sua specificità di prodotto umano.